più salario meno orario, più salario meno orario, più trattenuti al signor Milan, più salario meno orario. Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Ora, cari ascoltatori, ci siamo anche oggi per una nuova puntata di Uno Nessuno 100 Milan fino alle 11 con tanti temi da affrontare, legati anche un po' a uno sguardo diverso, laterale su alcune questioni, per esempio il cinema. Parleremo del cinema che riparte, riparte sì, ma come, con quali regole? Ne parleremo più avanti. Come i concerti, sapete che ci ha scritto e ci stanno scrivendo molte persone che hanno comprato un biglietto per un concerto. Che succede? Beh, notizia di oggi, i concerti sono tutti rinviati per l'anno prossimo. Che succede ai biglietti che avete comprato? Cercheremo di scoprirlo, ma ovviamente ci concentreremo anche sui temi più legati alla situazione salute, al coronavirus, agli sviluppi. 800 24 00 24, il numero per connettervi con noi. Saluto l'Alpino che torna in regia, coadiuvato in regia dalla rossonera Claudia Schiattone, sempre lì, e insieme alla nostra redazione Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli. Dai Alpino che ci siamo, vai! Enthusiasm about the future. Devo dare il numero per i WhatsApp, 349-238-6666, anche per i vostri SMS. E mi raccomando, scrivete anche le mail. 100milan@radio24.it è il modo per raggiungerci comodamente. Oh, signori, devo dire che io ieri, vi ricordate come ho iniziato la trasmissione? Ho detto era lunedì. Un nuovo lunedì, una nuova ripartenza. Sono sceso sotto casa, effettivamente, vedendo i tavolini ai bar, ho provato questa piccola emozione, questa gioia, questo senso di una ripartenza, di una piccola rinascita. Oh, ragazzi, però devo dire che adesso, come al solito, quando poi vedo un po' la retorica italiana finire sui giornali su questa gioia, subito mi ritraggo a testuggine, perché ho letto questo titolo sulla stampa: fare la fila per il caffè diventa una gioia. Oh, adesso calmi, perché va bene, anch'io ho provato gioia, mi si è illuminato il cuore a vedere il tentativo di ripartenza, però adesso trasformare questo in una gioia perenne, cioè come se fare la fila per il bar sia una gioia, non esageriamo, perché questa gioia temporanea nel giro di 3 giorni si trasformerà in aggressività e litigi, e magari anche qualcuno avrà voglia di menar le mani, e speriamo che non lo faccia. Quindi non esageriamo. Però leggo anche Michele Serra, l'amaca di Michele Serra, sentite qui: emozionarsi per un caffè seduti al tavolino, per una merceria aperta dove comprare una cerniera lampo, per il contatto dei piedi scalzi sulla sabbia, quasi commuoversi per un amico incontrato per strada, per lo scodinzolio di un cane ritrovato. Le cose piccole e semplici che assumono un valore improvviso. Va bene, però fermiamoci qui. Non è piacevole fare la fila per prendere un caffè. Non è piacevole fare la fila per andare dal macellaio. Abbiamo vissuto quel momento di gioia? Fermiamoci. Anche perché, ragazzi, io vorrei capire una cosa. Lo chiedo veramente per cercare di capire. Io non amo le code, sono abbastanza impaziente, poi se le devo fare, che ne so, al check-in dell'aeroporto, le faccio. Mi spiegate perché il primo giorno di apertura siete andati in fila all'IKEA a Torino, ma in migliaia e migliaia all'IKEA? No, niente contro l'IKEA, per carità, peraltro ci sono sempre le file il sabato. Perché vi siete messi in coda all'IKEA? Oggi Massimo Gramellini se lo chiede anche in prima pagina del Corriere della Sera. Il primo posto in cui gli italiani, uscendo di casa, sono andati a mettersi in coda è quello dove si comprano gli oggetti per casa. Qualche studioso del ramo divorzi avanzerà l'ipotesi che avessero esaurito le scorte di piatti e sedie usati come proiettili durante i mesi di convivenza obbligata, ma esiste anche la possibilità che a furia di frequentarla la casa sia diventata il centro dei loro pensieri. E comunque Gramellini se lo chiede, la voglia di uscire dal letargo tornerà solo con il vaccino. Fino a quel giorno, alla prospettiva di cenare a distanza in un ristorante sanificato o di prendere l'aperitivo davanti a un cameriere munito di termoscanner che ti accoglie come un pistolero di Sergio Leone, anche il meno orso tra noi preferirà 3 ore di coda dentro capannone svedese per cambiare gli abat-jour. Ecco, non sono io. Le ore di coda, primo giorno all'IKEA. Va bene, ragazzi, è bello perché c'è la libertà di tutti. Signori, vi propongo due audio. Il primo è della ministra dell'istruzione Azzolina. Devo dire, anche oggi ci sono molti articoli a dire i bambini, i ragazzi, questi dimenticati. Una roba incredibile, non si sa se mandarli dai nonni. Tra poco, tra l'altro, finisce anche quell'accenno di scuola che è rimasta, didattica online. Il 7 giugno finisce, non ci sono i campi estivi, sarà un vero dramma. Cosa fare dei bambini, i ragazzini, quelli che non sono autonomi? Una roba pazzesca. E oggi Lucia Azzolina risponde all'appello degli insegnanti, sottoscritto anche da Massimo Cacciari, di cui vi ho dato conto ieri, dicendo che è importante la didattica online. Certo, non è una sostituzione della scuola, dice Azzolina, però non sprechiamo questa occasione, no? È come dire, facciamo di necessità virtù, e fa un lungo articolo, un lungo intervento sulla stampa che vi è andata a leggere. Vi sottopongo però una frase, una similitudine un po' infelice che ha fatto Lucia Azzolina e che oggi permette a Libero soprattutto di prenderla un po' in giro, quando 2 giorni fa in conferenza stampa, e poi lo ha detto anche dopo in un'intervista, ha detto: gli studenti non sono imbuti da riempire. Senti qui, vai Alpino. Serve alla crescita della persona, perché la scuola serve a questo, non è un travaso di conoscenze che viene fatto. Lo studente non è un imbuto da riempire di conoscenze, è ben altro. No, lo studente non è un imbuto da riempire, anche perché l'imbuto ha un buco e quindi non si riempie. Ecco, e quindi insomma anche la comunicazione è importante. Un imbuto da riempire io non l'ho mai visto, perché un imbuto non serve ad essere riempito, ma a travasare, appunto. Poi vi propongo anche questo secondo audio, non mi interessa tanto, è di Salvini, l'idea del no alla burocrazia, per carità, non se ne può più, ma Salvini rilancia la pace fiscale, è bellissimo, pace fiscale, vai Alpino. Se approfittiamo per ricostruire il paese come fecero i nostri nonni e i nostri genitori nel dopoguerra, burocrazia zero, stop a tutti i problemi del passato, quindi pace fiscale, pace edilizia, di questo hanno bisogno gli italiani. Di questo hanno bisogno gli italiani, pace fiscale, pace edilizia. Vi ricordate, mitico, il tentativo di non chiamarlo condono, quindi pace fiscale. C'è chi lo ha chiamato a posto così fiscale, tranquillità fiscale, pace fiscale, il condono, l'ennesimo condono che negli ultimi 50 anni si ripropone ogni tanto, condono fiscale e condono edilizio. Avete fatto qualcosa nel passato che gli italiani hanno bisogno di questo? A posto così, laviamocene le mani. Va bene, dai, fatemi salutare il primo ospite, che è Mario Balzanelli, è il presidente nazionale della Società Italiana Sistema 118. Buongiorno Balzanelli. Buongiorno a voi. Grazie di essere qui, io ho tantissime domande da fare. Intanto le devo dire un grazie da parte di tutti gli italiani. Insomma, Sistema 118 sappiamo cosa significa, io credo che siate la categoria di operatori che insomma hanno subito, tra le categorie che hanno subito uno stress enorme in questi mesi, e credo che un grazie sia dovuto da parte di tutti a tutti coloro che stanno lavorando ancora. Ringrazio lei, ringrazio ringrazio voi per il pensiero, anche perché di solito il 118 è dimenticato, quindi le porgo anche il grazie da parte di tutti gli operatori. No, ma è così, siete davvero il primo numero, il primo presidio che in realtà quando uno è in difficoltà compone e chiama. Senta, io le chiedo questo, leggo un articolo sulla stampa che la riguarda, come ho letto nei giorni scorsi articoli che la riguardano. Leggo sulla stampa, c'è stato un rapporto sbagliato dell'Istituto Superiore di Sanità su come eseguire i tamponi, rapporto poi corretto, ma purtroppo il rapporto sbagliato pare che circoli ancora in rete, per cui molti falsi negativi in realtà non lo sarebbero, e è una vicenda che ha tirato fuori lei. Sì, ci aiuta a capire? Di fatto io ho evidenziato un dato clinico e di tipo esperienziale che peraltro noi riscontriamo un po' in tutte le regioni, ossia esiste una categoria di persone che non viene identificata, che non viene contata, che non viene classificata. La categoria di soggetti che hanno le caratteristiche cliniche, laboratoristiche, radiologiche indistinguibili di un soggetto con Covid-19 polmonite interstiziale, ma che sono negativi all'esame del tampone. Qui si può ripiegare poco rispetto alla metodologia di esecuzione dello stesso, perché risultano negativi a più tamponi, ma se andiamo a guardare nei bronchi, scendiamo giù col broncoscopio e facciamo un'analisi del liquido di lavaggio bronco-alveolare, che tecnicamente si chiama BAL, invece il Covid in una percentuale che va ancora compresa, meglio identificata, però lo troviamo, l'abbiamo trovato. Però il tampone dice che non c'è, almeno questo il tampone dice che non c'è. E allora questi Covid-like, che rimangono tali fino a quando non si trovi il codice genetico del virus, quindi di fatto il virus stesso, di fatto ci impegnano a comprendere percorsi assistenziali che prevedano l'isolamento in aree protette Covid e terapie che, sino a quando non si vadano a dimostrare altri tipi di eziologie, devono essere specifiche per Covid. Ecco, però per questo viene chiamato, lei ha detto Covid-like, cioè come se fosse Covid, no? Perfetto. Perché il riscontro è questo. Però il passo in più che scrive oggi la stampa, e vorrei che su questo lei ci chiarisse, è che può essere, ma è una domanda che le faccio, che siano falsi negativi perché sono fatti male i tamponi? Ma tutto può starci, però le faccio l'esempio di Enzo Bancone, che è il direttore della centrale operativa 118 di Avellino, che è un nostro iscritto della SIS 118. Lui era un Covid-like, ha fatto 3 tamponi in 3 settimane negativi, e alla 4ª settimana si è positivizzato. Quindi l'idea potrebbe essere fare anche i test rapidi, oltre al tampone, ai Covid-like, per vedere se hanno prodotto anticorpi nei confronti di SARS-CoV-2. Ho capito, ma così, cioè non possiamo neanche essere sicuri dell'efficacia del tampone, come ne usciamo? Il tampone a dirla tutta presenta la possibilità naturale di fare a una bassa sensibilità, quindi può fare anche fino a un 40% di falsi negativi, e questo è una limitazione intrinseca della metodica. Però io riterrei da clinico che il problema non è tanto stare sul limite oggettivo della metodica, quanto noi dobbiamo trovare il Covid se il Covid c'è, e quindi ci dobbiamo porre il problema più semplice, che se non lo troviamo col tampone dobbiamo ricercarlo diversamente, perlomeno nei soggetti che abbiano una polmonite, che abbiano un impegno polmonare o insufficienza respiratoria acuta. Le statistiche di cui io ho parlato, che non riguardano pochi casi, fondamentalmente sono relate a soggetti che, quando gli abbiamo fatto l'emogastanalisi, presentavano riduzioni importanti della pressione parziale di ossigeno nel sangue, quindi erano tutti soggetti che respiravano male e avevano delle brutte polmoniti a vetro smerigliato. Almeno su questo chiaro, va cercato profondo. E per carità, non lungi da me fa le polemiche, per oggi l'articolo sulla stampa, non so se lei l'ha già letto, di Paolo Russo, visto che riguarda appunto anche questa vicenda che lei ha denunciato, dice che c'è il rischio che possano essere fatti anche in maniera superficiale i tamponi, cioè proprio in maniera sbagliata. Assicuro il giornalista che non ci limitiamo al primo tampone. È chiaro. Però ecco, se il primo tampone risulta invece positivo, non c'è bisogno di farne un altro, oppure sì comunque? Se il primo primo tampone è positivo, occorre ovviamente curare il paziente e predisporre il più precoce accesso alle cure dello stesso e della gestione in criteri di isolamento. Però no, voglio dire, l'errore può succedere solo, cioè il dubbio può succedere solo se risulta negativo di doverlo rifare, se risulta positivo non può esserci la situazione inversa che potrebbe in realtà essere negativa. Abbiamo anche in realtà qualche falso positivo, perché la biologia del Covid, la sua immunologia e la sua reazione e poi gli elementi di confondimento possono produrre anche falsi positivi. Per questo il tampone prudenzialmente viene ripetuto sistematicamente ed è utile, a mio parere, intrecciare la valutazione seriata del tampone con quella dei test rapidi, che invece valutano la produzione degli anticorpi da parte dell'organismo. Quelli della classe IgM quando riteniamo ancora che l'infezione sia attiva, e quelli IgG quando riteniamo, ma sono tutti paradigmi che sono in fase di verifica, che il paziente stia guarendo, sia guarito. Certo. Balzanelli, io nel ringraziarla, mi dice se in questi mesi c'è stato un momento più critico degli altri per il sistema 118 e se invece avete retto bene l'onda d'urto. Il 118 è stato straordinario in tutta l'Italia, è stato completamente lasciato privo di dispositivi di protezione individuale, i nostri sono andati quasi a mani nude in tante realtà a combattere contro il Covid, è stato tragico, un dramma. Questo dispiace soprattutto perché nella previsione e nella predisposizione dei piani pandemici bisognava considerare le scorte dei dispositivi di protezione individuale, rinforzare il sistema 118 che, come si potrà vedere anche dall'ultima manovra, colgo l'occasione di questa graditissima intervista, lo rilancio tramite voi, la più grande manovra che sia mai stata fatta nella storia d'Italia, della sanità italiana, di supporto della stessa, vede totalmente escluso il 118, che invece è quello che in prima linea va a rischiare di morire, di prendersi il Covid. Sì. Non abbiamo parole, quindi lo dico francamente attraverso la vostra anche perché poi radio. In ottobre, se si dice appunto c'è il rischio di un ritorno, spero che gli strumenti adesso che lei ha denunciato non c'erano, ci saranno. Ma io spero intanto che si faccia un piano pandemico adeguato a quelli che sono le esigenze di un piano pandemico attuali, perché Covid ha sconvolto un po' la sanità mondiale e quindi ha tirato fuori l'esserci addormentati da parte di taluni e essersi messi sull'amaca. Però torno a dire, il governo, forte di questa esperienza, evidentemente vara una manovra impressionante dove esclude completamente il 118. Siamo bene, tutti questa, senza parole. Questa è una denuncia che lei ha fatto e sulla quale mi fermo e la ringrazio. Ripeto, Mario Balzanelli, presidente nazionale della Società Italiana Sistema 118, che ci ha spiegato anche questi COVID-like, no? queste malattie che vengono trovate, cioè sintomi come fosse Covid, però il tampone è negativo. Ora, sulla stampa c'è scritto a firma Paolo Russo che potrebbe essere dovuto anche a degli errori, un rapporto sbagliato dell'Istituto Superiore di Sanità, poi corretto, ma è rimasta una versione errata che circola anche online, sul fatto che i tamponi vengono fatti in modo o venivano fatti in modo sbagliato. Io invece ora voglio concentrarmi con un ospite che saluto su un tema che è un tema molto vasto. Quando si parla di povertà, di nuovi poveri, è chiaro che non si può raggruppare tutta una categoria che immagino sia molto molto vasta, però un osservatorio molto interessante ce l'ha sempre la Caritas. Allora, Federica Delauso è dell'ufficio studi Caritas Italiana, buongiorno Delauso e grazie di essere qui. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Perché voi alla Caritas avete il polso della situazione, che spesso si misura con le file che ci sono di cittadini che si mettono fuori dai tanti vostri uffici, centri in giro per l'Italia a chiedere anche un po' di pasta. Ecco, queste file che cosa vi dicono, l'analisi di queste file? Noi abbiamo realizzato un monitoraggio proprio dal 9 al 24 aprile, quindi proprio in pieno lockdown, per monitorare e mappare quelle che sono le fragilità e i bisogni dei territori in questa fase particolare ed emergenziale. Abbiamo riscontrato appunto in queste settimane un forte incremento, appunto diceva lei, le file del numero di nuovi poveri, quindi persone che non avevamo mai incontrato nei nostri centri di ascolto, nei nostri servizi. Pensate che in poche settimane sono state oltre 38.000 queste nuove prese in carico, è un dato sicuramente sottostimato in termini complessivi, visto che si riferisce a circa la metà delle Caritas diocesane presenti in Italia. C'è stato comunque un incremento del 105% delle nuove povertà, che si sommano chiaramente a già quelle note e in alcuni casi croniche che sono conosciute da tempo. Ecco, chi sono i nuovi poveri? Esatto, perché ovviamente dire chi sono non è facilissimo, però è le categorie più a rischio, ecco, mettiamola così. Sì, diciamo in queste settimane, ecco, da quello che è emerso dal nostro monitoraggio, ci sono italiani, stranieri, giovani adulti, ma anche anziani soli, famiglie con minori, nuclei che sono toccati dalla disabilità. Si tratta di persone che prima dell'emergenza potevano contare magari su un impiego precario, stagionale, irregolare, o ancora magari piccoli commercianti, lavoratori autonomi, anche persone che versavano già da tempo in uno stato di disoccupazione. A tutto questo si aggiunge anche, diciamo, i cassaintegrati, i liberi professionisti che sono in attesa dei trasferimenti monetari di protezione e di assicurazione sociale, che sono stati stanziati a marzo e in molti casi ancora non risultano accreditati. Quindi a fare la differenza, chiaramente in questo periodo che è stato un po' di attesa, no? Un po' per tutti, è la possibilità o meno di attingere ai propri risparmi, no? Evitando lo scivolamento in uno stato di indigenza. In questo senso possiamo dire però che anche i dati ISTAT dimostrano che è un'Italia che non è pronta, quasi 2/3 delle famiglie non riesce ad accantonare alcunché a fine mese, circa 1/3 non è in grado di far fronte a una spesa imprevista anche di circa 700-800 euro. Questo va a dimostrare, ritorno al discorso delle lunghe file, perché dopo alcune settimane di lockdown molti hanno dovuto far riferimento proprio ai nostri servizi, ai nostri centri. Sì, senta, ma voi invece come Caritas, cioè l'approvvigionamento, perché se aumentano le file vuol dire che c'è bisogno di più prodotti da fornire alle persone in situazioni di povertà, da questo punto di vista riuscite a far fronte alle richieste? Diciamo che in questo periodo, in queste settimane, possiamo dire un aspetto positivo, c'è stato un forte incremento della solidarietà che si è espressa sia in termini di disponibilità per appunto darsi da fare come volontari, ma anche in termini proprio di donazioni. C'è stato un bel lavoro anche sui territori di collegamento di rete anche con i supermercati, sono state fatte anche delle collette, ci sono dei fondi diocesani che sono stati messi a disposizione proprio per supportare questo momento difficile. Chiaramente diciamo che l'esigenza continua ad essere importante, quindi diciamo che c'è bisogno della collaborazione di tutti, ci sono anche dei filoni di finanziamento europeo, quindi il filone del FEAD che permette di distribuire anche beni di prima necessità. Però ecco, sicuramente possiamo dirlo, un aspetto positivo è stata anche la grande generosità degli italiani. Beh, questo è il punto fondamentale, appunto, che volevo far evidenziare. Non solo c'è più bisogno, ma c'è anche più prontezza nel dare, insomma, nel dare a chi ha bisogno. Io la ringrazio, Federica De Lauso, grazie per essere stata qui, Ufficio Studi Caritas Italiana. Grazie a voi. E ovviamente andiamo un attimo a sentire la pubblicità, poi arriva Vestagliona Manera, chissà se è di buon umore oppure no, se è amaro, se è allegro, chi lo sa, parleremo di tante cose, per esempio tra poco parleremo anche di questa riunione che c'è stata all'OMS, allora vogliono fare causa alla Cina, vogliono capire che cosa è successo in Cina, a Wuhan soprattutto, da dove è generato il virus, ormai questo è abbastanza chiaro, oppure non ci riusciranno, ne discuteremo tra poco. State ascoltando un programma offerto da... Cerchi un software per analizzare, simulare e pianificare? Vai su board.com. Uno, nessuno, 100 Milan. Milan, ma la fila era per le polpette di Ikea, ma vuoi mettere? Buongiorno Milan, perché stando a casa uno ha controllato quello che gli mancava, ha preso le misure, così si può arredare di nuovamente. Giusto. Milan, ma la gente sarà poi libera di fare quello che gli pare? Milan, prima sì. Ti invitavi ad abbracciare i cinesi, voi vuoi riaprire scuole. In Francia ne ho chiusi 70. Mamma mia, ancora. Abbiamo capito che non regge più i tuoi figli. Falla finita però, eh. Allora, sto abbraccio al cinese, guardate, no, non ne posso più, però lo ridico per l'ennesima volta. Abbraccia un cinese che rivendico come campagna. Sì, ciao sì, Leonardo. È stata ciao, fatta quando il virus che veniva dalla Cina fu scambiato per un modo per essere razzisti contro i cinesi. È come se, caro ascoltatore, nessuno abbracciasse più te perché c'è la mafia in Italia. C'è la mafia in Italia, allora. E quindi uno dice che schifo abbracciare questo ascoltatore italiano mafioso. Ecco, allora, io mi dire che c'è buongiorno. Il virus cinese non vuol dire essere razzisti contro i cinesi. Ciao, mi prendo, ciao buongiorno, ciao. Mi prendo io la responsabilità di questo titolo, di questa campagna, perché venne da me. Io un ma giorno vedi, scrissi vedi che io non ti scarico chat, ma non perché ti scarico, non faccia... come faresti tu? Come faresti tu? Ma tra l'altro è una campagna, è un titolo che poi ha avuto un certo successo, perché viene sempre citata certo. negativamente certo. Che ne so, l'ho sentita citare negativamente dalla Meloni, anche da Calenda, e dice certo. Oh, questi che andavano in giro a dire abbraccio un cinese, ma lo spirito era quello che dici tu, ma però siccome è uno spirito da interpretare, non è come al solito sì. Bianco o nero, bisogna certo. Capire allora diventa immediatamente certo. Infatti più io difficile. Non abbraccerei mai questo ascoltatore perché è italiano, quindi mafioso italiano, quindi mafioso, va bene, le piace caro ascoltatore? Non la tocco, però bisogna, mafioso bisogna dire che il titolo però ha funzionato, è un titolo carino che è rimasto certo, nella memoria certo. Quindi sono orgoglioso di questa campagna equivocata. Orgoglione Manera, come stai Orgoglione Manera? Ma sì, sto bene, guarda, no, il fatto che le persone, l'ho scritto anche ieri su Facebook, siano in coda all'IKEA fin dal primo giorno è la dimostrazione che quelli che dicevano niente sarà mai più come prima è sbagliato, perché immediatamente siamo riversati esatto. A essere, a fare le cose che facevamo prima. Quindi, niente sarà mai più come prima. Primo giorno coda all'IKEA, questa è la dimostrazione. Esatto. Forse non sarà mai più come prima perché la coda è più lunga adesso. Non sarà mai più come prima code brevi, sì. Code corte. Adesso sì, saranno no. Più lunghe, giustamente, perché bisogna. Va bene. Oh, spero che questa questione dell'abbraccio a un cinese sia conclusa definitivamente, ma non sarà così fino al prossimo ascoltatore italiano, dunque mafioso, o tedesco, quindi nazista, o poi possiamo continuare, che ci scriveranno, no? Perché giustamente le similitudini possono andare avanti così. Allora, c'è con noi però Leonardo, aspetta che l'abbiamo preso al volo, lo ringraziamo, Roberto Bertollini, che è per anni è stata all'OMS, rappresentante per l'Unione Europea, ora fa parte della Commissione Salute della Commissione Europea, è consulente per il Ministero della Salute del Qatar. Eccoci Bertollini, buongiorno, l'abbiamo rubata una buongiorno, conferenza. Alessandro, buongiorno Manera. So che può stare poco con noi, ma le volevo chiedere questo Bertollini. Allora, che succede a questa OMS? Si fa... dico questa parola grezza, causa alla Cina? Si scopre cosa è successo in Cina o no? Ma guardi, ieri nell'Assemblea Mondiale della Sanità, che è aperta in modo virtuale ieri, appunto ha parlato il presidente cinese, poi ha parlato il direttore generale dell'OMS e hanno parlato Stati Uniti e altri paesi. Diciamo che c'è un consenso generale a fare una valutazione della risposta dell'OMS, il direttore generale ha anche sottolineato anche dei paesi al coronavirus per imparare un po' la lezione, insomma, per capire cosa si è fatto di giusto, si è fatto di sbagliato e poter evitare che questo si ripeta nel futuro. Sì. Questo più o meno è quello che è stato, che ho capito, è stato concordato attraverso anche una proposta fatta dall'Australia e da altri 120 paesi. Sì, ma questo OMS è davvero in mano ai cinesi? Qualcuno la definisce un carrozzone controllato politicamente dai cinesi? Lei che lo conosce molto bene, l'OMS. Guardi, questo è veramente una putata, una cosa che non è vera. Insomma, io ci ho lavorato tanti anni e devo dire che Certamente i paesi hanno un ruolo, cioè si esercitano un ruolo importante, l'Assemblea Mondiale della Sanità definisce linee strategiche, è fatta dai ministri della sanità dei paesi del mondo, perché così è, e che l'OMS in qualche modo deve fare quello che i paesi concordano. Quindi c'è un ruolo molto importante dei paesi, questo non va dimenticato, di tutti i paesi. Alcuni paesi hanno un ruolo più significativo, per esempio il Regno Unito, gli Stati Uniti. Ma da cosa dipende? Da cosa dipende questo ruolo più importante, mettiamola così? Dipende da un lato dalla capacità e dalla preparazione delle persone che vanno in queste riunioni, perché dobbiamo dimenticare che queste riunioni sono riunioni fatte di gente, persone, cioè se tu sei preparato, sì, sai certo. Le cose, intervieni in modo adeguato, ti ascoltano più che se tu vai lì senza aver letto manco un documento, cosa che spesso accade, non diciamo da quale paese. E quindi questo è un primo punto. Il secondo punto, chiaramente alcuni di questi paesi danno anche un contributo volontario all'OMS più alto di quello di altri, e quindi chiaramente in questo senso propongono un progetto, lo finanziano e il progetto magari viene fatto, perché l'OMS è basato su un budget di cui l'80% è donazioni dei paesi individualmente considerati, dall'altra è invece il 20% sono contributi obbligatori, cioè una specie di, come dire, pagamento della tassa di iscrizione, diciamo, che è totalmente indipendente dal paese, perché sono tutti quanti, sì, che contribuiscono in base proporzionale al loro reddito. Quindi è evidente, diciamo, che quando uno mette soldi sul piatto, poi c'ha un ruolo più importante. Sì, diciamo che quindi è un misto di finanziamenti e anche di come uno approccia l'OMS, cioè è un consesso diplomatico anche, no? In cui le diplomazie avranno il loro peso, la capacità di fare pressioni, che non è una cosa negativa, la capacità di essere persuasivi, mettiamolo così. Esatto, faccio un esempio, un paese come Monaco, che è un piccolo paese, piccolissimo paese, però è molto attivo a livello all'OMS, ha un ruolo assolutamente sproporzionato rispetto alla popolazione. Non parliamo poi di paesi come l'Olanda, per esempio, che ha un ruolo molto forte. Se lei ieri guardavo su un sito dei finanziamenti che l'European Research Council dà all'Olanda, che è un paese di 7-10 milioni di abitanti, sono tre volte quelli che prende l'Italia, perché l'Italia non fa i progetti, non manda le domande, non partecipa a certi consessi. Quindi poi ci si lamenta perché i soldi non arrivano, perché l'Europa è cattiva, cioè. Però c'è anche un ruolo molto attivo da giocare. Io le volevo chiedere un'ultima cosa questa. Abbiamo detto che lei è consulente per il Ministero della Salute del Qatar. Caro Leonardo Manera, sai cosa ho letto sul Qatar? Ho letto questa notizia, ma forse l'ha suggerita lei, Bertolini, cioè multe altissime per chi non mette la mascherina e rischio di, credo, 3 anni di carcere. 3 anni di carcere in Qatar, sì. Ma è davvero così? E 50.000 euro di multa pure. 50.000, vabbè, ma in Qatar c'è il petrolio, ma 50.000 euro, uno dice ma venite nel mio pozzo di petrolio e prendetevi qualche barile, scherzo ovviamente. Prego. No, è vero, sì, è una disposizione, non l'ho suggerita io, devo dire, è una disposizione che è stata presa adesso, perché da ieri, anzi dall'altro ieri, tutti quanti devono portare la mascherina in qualunque luogo, anche all'aperto, oltre che nei luoghi chiusi che già era in vigore da qualche settimana. E in caso di violazione ci stanno questa multa. Ora, voglio dire, ci stava anche una multa molto alta prima per chi usciva dalla quarantena senza permesso, l'hanno applicata in alcuni casi, anzi la cosa interessante è che hanno messo sul giornale i nomi di quelli che l'hanno violata e sono stati alcuni giorni in galera. La gogna mediatica. Diciamo. Sì. Anche la questione delle mascherine... È un bel mistero questa di mascherine, perché ci abbiamo messo mesi a capire se erano fondamentali, necessarie oppure no. Adesso pare che si sia appurato che invece servono, insomma, però ci si è messo un po', no? Anche nei primi tempi. No, infatti sulle mascherine c'è stata anche una polemica con l'OMS anche sulle mascherine, però le mascherine è una cosa che è stata usata all'inizio secondo alcune disposizioni provate scientificamente, poi piano piano si è capito che poteva essere utile anche a proteggere dai cosiddetti asintomatici, che sono purtroppo tanti, e quindi è diventata una cosa di maggior uso, e sicuramente è una disposizione positiva e necessaria. Qui ci sono tantissimi asintomatici, qui la mortalità è bassissima, sono stati 15 morti in totale su 35.000 casi, quindi un numero irrisorio, dovuto principalmente alla popolazione molto giovane e c'è un grandissimo numero di asintomatici. quindi queste mascherine sono indispensabili. Noi la ringraziamo Roberto Bertolini, devo dire anche sulle mascherine, anche lì sì, devo fare un mea culpa perché all'inizio si diceva appunto non servono, quindi ho detto ah se vi incontro ve le strappo, non siamo a carnevale, ma perché all'inizio dicevano non servono se non sei malato, no? E quindi mi sono lanciato un po' in maniera intemerata, mentre su abbraccia un cinese ancora, vabbè basta, basta, poi tra l'altro è tutta colpa di Manera, insomma. Era una solidarietà per dire se anche il virus viene dalla Cina, non è che i cinesi che ne sono vittime devono essere colpevolizzati per questo. Comunque Bertolini, grazie per essere stato con noi. L'Italia era il paese più colpito al mondo, quindi abbiamo assistito a degli episodi di discriminazione anche fatto male a tutti. Sì, ma io dico è come se uno dicesse siccome in Italia c'è la mafia non abbraccio un italiano o non parlo con un italiano perché gli italiani uguale mafiosi, cioè questo era il significato, non vuol dire che se il virus viene dalla Cina, cinese uguale untore o cinese uguale maledetto che deve essere come dire isolato, se no qui si scatta nel razzismo. Grazie Bertolini, Leonardo, più lo spiego e più si scatena il fenomeno contrario, che più lo spiego e più mi attaccheranno, no? Sai quel fenomeno per cui non dovresti parlarne più, chi ha capito è perché è intelligente, chi non ha capito è perché vuole speculare e via, insomma. Va bene, quindi ho dato adesso degli stupidi a chi non ha capito, quindi forse è meglio che non ne parli più. E tu hai sempre un atteggiamento un po' con una certa protervia, quindi vabbè ti si conosce ormai. Quindi d'altronde avendo inventato io la campagna abbraccia un cinese, devo dire che adesso ne scone. Guardate come se ne sta zitto in un angolo, oserei dire come un pangolino con il coronavirus, se ne sta lì ritratto come un pangolino. L'ho detto all'inizio che è un'idea mia il titolo della campagna. Sì, l'hai detto oggi, dopo mesi, mesi nei quali non ti ho additato come colpevole numero uno, cosa che avrei potuto fare, no? Anzi, devo anche dire, per chiamare in causa anche Elisabetta Fusconi, lei non ricorderà, che quando io proposi la campagna, lei addirittura mi disse, Leo, ma sei un genio, è un'idea bellissima, quindi questa idea fu supportata da Elisabetta Fusconi, che adesso negherà, ma io ebbi il suo conforto. Ma noi pubblicheremo tutte le chat sul sito Facebook di Unison 100.000 epurata. Me l'aveva detto a voce perché era il periodo in cui tutte le mattine venivo ancora alla radio, quindi me l'aveva detto a voce. Sì. Vabbè, hai altri colpevoli da tirare dentro in questa rogna maledetta in cui ci hai ficcato? Nespoli e Rucchetti hanno dato un silenzio assenso che in giurisprudenza è cosa nota, silenzio assenso. Certo. Quindi la responsabile dei programmi, la signora Scaglioni, non si è opposta, Bisoni men che meno, quindi io direi che abbraccio un cinese è una campagna della radio intera. Mi permetto di dire esatto. Il cui direttore è Fabio Tamburini, ricordiamo. Ma è il primo responsabile. Anche Simone Spezia, sai che passando, incrociandomi in bagno, ha detto, ma sai che questa porca miseria l'hai avuta tu come idea? Io no, l'ho avuta Manera, perché se no te l'avrei fregata, l'avrei fatta io. Quindi Simone Spezia anche è colluso, sì, è colluso. Radio italiano 24 mafioso, è la colluso di Radio 24, la radio di Abbraccio un cinese, sostenuta da tutti o in via diretta oppure attraverso il silenzio assenso. Adesso sai chi mi ricordo che mi ha mandato un messaggio per dire ma che bella idea, Alessandra Tedesco, la tua amica, quella a cui vuoi fare le scarpe, anche lei ha detto che voleva parlarne citando due o tre libri caso nel suo programma su Abbraccio un cinese. Vabbè, andiamo al traffico. Vabbè, volevo consigliare un libro, lo farò dopo, dai. 1, nessuno, 100 Milan. Manera, è colpa tua se c'è coda all'IKEA. Sei tu che dicevi nel momento di lockdown di prendere le misure dei mobili se non avete niente da fare. Buongiorno Milan, fate causa ai cinesi, così loro vi chiederanno indietro tutti i crediti che hanno nel mondo, ci faranno morire di fame. Ciao. Oh Milan, ma lo sappiamo che era tutta una campagna contro il razzismo nei confronti dei cinesi, però vuoi mettere il gusto e prendete un po' per il culo. Questo lo capisco, E ci siamo dimenticati dell'alpino, caro Manera. Lui soprattutto sostenne questa campagna. Mi ha dato anche 10 euro per sostenere questa campagna, lo sai? Questo non credo. Vabbè, volevi consigliare un libro? Sì, perché tu hai citato Alessandra Tedesco, immediatamente sì. Voglio toglierle il lavoro a Radio 24. Allora mi è venuto in mente, visto che il periodo è molto di nevrosi, si parla di nevrosi, di reazioni appunto di questo tipo al coronavirus, io consiglio Il crematorio di Vienna di Goffredo Parise, è un classico. Il momento di più lucida analisi della violenza insita in ogni società umana. Ecco, questo c'è scritto nella quarta di copertina. Esattamente, sì. Io leggo solo ma le quarte di copertina. Letto? Non è che... Ma tu che l'hai letto? No. Allora, leggetelo, cari ascoltatori, e poi questa è la segnalazione. Sapete che è la modalità Manera. Voi lo dovete leggere e dovete, se volete, anche in questo caso contattare l'autore è un po' complicato, ma però insomma, se volete, poi potete fare un riassunto e dire a Manera. Ecco. La quarta di copertina ha delle frasi bellissime: la chirurgica e demoniaca violenza intellettuale dell'uomo sull'uomo, la cremazione morale della sua essenza. Quindi vale la pena di leggerlo, poi ditemi com'è. Ma tu preferisci dei romanzi corti, sempre in quarta di copertina sto parlando, o dei romanzi lunghi che si dilungano, sempre in quarta di copertina? No, in quarta di copertina mi piacciono quelli lunghi, perché è come leggere un bigino comunque, in mezzo a una paginetta c'è tutta la storia lunga. Perfetto, era questo che volevo sapere. C'è Maurizio da Vicenza, buongiorno Maurizio. Buongiorno, eccoci. Volevo condividere con voi due cose. Io ho un ristorante self-service in un centro commerciale. Quello che io ieri mattina abbiamo riaperto, le dico, con fatturato del 20-25%. Questo è. Ma la cosa che io volevo riflettere con voi è: noi ci stiamo ricomprando le nostre aziende, perché i costi che abbiamo sostenuto in questi 90 giorni in provincia di Padova, io ho un locale chiuso da 90 giorni perché era vicino, perciò. E i costi che noi sono maturati in questi giorni, in questi 90 giorni, ce li ritroviamo a doverli restituire, insomma, pagare gli affitti, le utenze, le assicurazioni e quant'altro. Cioè, parliamo di costi, non di mancato incasso, perché qua non bisogna confondere costi e mancato guadagno. Io sarei stato il primo a voler rinunciare a tutto il guadagno, anche se ce n'era molto, molto poco. Ma i costi noi ci stiamo ricomprando le nostre aziende. La differenza è che se io oggi compro un'azienda e spendo 100.000 euro, l'ammortizzo in 8 anni e la pagherò forse in 8 anni, facendo un mutuo. Sì. Questi costi noi dobbiamo darli nel giro di 20-25 giorni, perché giustamente i proprietari dei muri, le assicurazioni, le utenze, li vogliono essere pagati questi soldi. Certo, certo. E è la Maurizio... più grande che bisogna fare. E poi le dico una piccola cosa che il suo ospite prima ha detto. Io vorrei che Burioni venisse in televisione e dicesse a tutti quanti: signori, scusate, ho sbagliato quando da fatti ho detto che era una mascherata mettersi le mascherine, perché le dico che se oggi noi avessimo avuto tutte le mascherine avremmo avuto il 10% dei morti e il 10% adesso, di quello che questo no, glielo dico non, io non lo, non lo sa, beh, però ce lo dice lei, che però non fa di mestiere quello, ecco, nel senso, se qualcuno ha sbagliato, non lo so, adesso questa dichiarazione non la ricordo, così diciamo che lo scienziato ragiona sul momento. Forse ha detto quella cosa quando si pensava così, cioè, però non è che la scienza è matematica 1 più 1, 2. Dopodiché, insomma, Maurizio, la ascolto fino alla questione del suo lavoro e delle difficoltà, che capisco, comprendo e mi spiacciono molto. Sulla questione del ognuno ha la soluzione per dire come sconfiggere il virus, in realtà non ce l'ha nessuno, non ce l'avrà neanche, non ce l'avrà Burioni, ma non ce l'avremo neanche noi, non ce l'ho neanche io. Anche se la campagna Braccion Cinese, guarda, basta, giuro, basta. Grazie Maurizio. Leonardo, a te la parola. Allora, dopo cinese. Mesi. Idea pessima, veramente. Dopo mesi in cui si parla solo di coronavirus, sono arrivato a un livello di saturazione. Cerco di sapere il minimo necessario per essere informato, se devo e fino a quando circolare con le mascherine. Ma per il resto, ogni notizia che riguarda il virus produce in me lo stesso effetto di una zavorra posizionata in una parte del corpo a vostro piacimento. Quello che almeno per ora è certo è che siamo in una fase meno complicata della prima. Ora bisognerebbe chiedere ai catastrofisti totali cosa è successo, a quelli che dicevano niente sarà mai più come prima, le nostre vite cambieranno per sempre. Io il niente sarà mai più come prima l'ho provato una sola volta nella vita, quando ho visto il primo film Hard con Rocco Siffredi, e da lì ho capito che avrei provato per sempre un senso di inferiorità. Per il resto tutto si è sempre aggiustato, tutto in un modo o nell'altro ha ripreso il corso normale della vita. Ieri ho fatto una passeggiata in città e, mascherine a parte, la vita mi sembrava simile a prima. Le mascherine non saranno obbligatorie per sempre neanche in Lombardia, io sono convinto che da luglio potremo tornare a circolare guardandoci in faccia. Stanno perfino riaprendo parrucchieri ed estetiste e tra poco potremo tornare a vedere signore di una certa età con i capelli del consueto color rosso mogano che pare il prediletto dopo i 70. Eppure già alcuni cominciano a parlare della seconda ondata, come se ci fosse un certo sadismo nel creare panico. Siamo ancora in mezzo alla prima ondata, che ora è diventata prima ondata dolcificata, e già qualcuno comincia a parlare della seconda. Come se alla fine di un matrimonio si cominciasse già a parlare del secondo divorzio, come se durante il pranzo si cominciasse già a parlare della cena, come se mentre si fa l'amore si cominciasse già a cercare le sigarette. Per favore, lasciateci godere. Almeno col pensiero, fateci godere mentalmente, dateci un attimo di tregua, fateci pensare, anche se forse non sarà vero, che quando finirà la prima ondata forse potrà anche non presentarsi la seconda. Fateci immaginare, come sostengono ormai alcuni medici, che il virus si è rabbonito, che ha conosciuto noi italiani e in fondo ci trova anche simpatici, per non aggredirci più come prima. Voglio pensare che ad agosto la vita sarà quasi normale, come gli anni scorsi. In città tutti i negozi chiusi, poca gente per strada, zero traffico e aria migliore del solito, praticamente la fase 1. Però non sarà così al mare per chi riuscirà ad andare. Al mare, anche se forse un po' distanziati dal solito, la vita sarà come ogni estate. Io voglio immaginare che due adolescenti al mare si incontreranno e cominceranno a parlare, e magari dopo aver estratto il risultato degli esami sierologici andranno in spiaggia e baciandosi si prometteranno amore per sempre. Poi torneranno dagli amici e diranno: ci siamo baciati, ci amiamo, niente sarà mai più come prima. Poi però cambia la stagione e con le foglie che cadono arriveranno anche altri amori autunnali e il niente sarà mai più come prima diventerà un lontano ricordo, come probabilmente avverrà anche per il coronavirus, quando in un tempo non troppo lontano avremo ripreso la nostra routine quotidiana, insopportabile, meravigliosa, inevitabile. Ho finito. Bravo, e l'abbiamo capito dagli applausi. Allora vorrei prima del giornale radio citare la chat che la redazione di Uno Nessuno 100.000, nello specifico Elisabetta Fusconi, ci manda. La chat risale al giorno boh. Manera, perché non lanciamo la campagna Abbraccia un cinese? Risposta un minuto dopo di Elisabetta Fusconi: sei un genio. Quindi io ho subito passivamente questa scelta dicendo sì, vabbè, bella idea, perché anche per non dare troppa enfasi al ruolo di Leonardo Manera, questo ovviamente, sei un genio. Abbiamo capito chi sono i grandi complottari di tutto questo: la Cina, Manera e la Svizzera. Giornale Radio. Ciao, sono Barbara da Nuoro, I love my radio. Ciao, sono Anna da Cremona, I love my radio. Ciao, sono Rosaria da Napoli, I love my radio. Gli italiani amano la radio. La partecipazione del pubblico ai programmi della radio è aumentata di oltre il 27%. Il tempo speso in ascolto digitale della radio è aumentato del 61%. Ed è l'amica sempre vicina a 37 milioni di persone. Con dei numeri così, la radio è il grande amore degli italiani. Anche di chi investe in pubblicità. I love Italia. I love my radio. Il segnale orario vi è offerto da Burro e formaggi Brazzale, i più elevati standard di verde e benessere animale. Uno, nessuno, 100 Milan. Ragazzi, io voglio una raccolta con tutti i monologhi di Manera, meglio registrati, fate una raccolta in podcast dove si possono scaricare tutti o comprare tutti o anche scritti, però no, io voglio registrati, dai, fate una bella raccolta con tutti i monologhi di Manera, per favore. Cioè, Manera ha detto quando venivo tutte le mattine alla radio, vestagliona Manera tutte le mattine alla radio, ma quando mai? Ma quando mai? Scusate, come mai non trasmettete i messaggi in cui si fa rilevare l'uso poco corretto dell'italiano da parte di Alessandro Milan? Grazie. Cosa ho detto però di adesso? Cosa ho detto? Qualche errore l'hai fatto. Altro che uno. Ma cosa nello specifico, caro ascoltatore? Se ho sbagliato, forse ho detto se io direi, non lo so, che cosa ho detto? No, si tratta di un congiuntivo, hai usato un congiuntivo in un tempo non giusto, secondo me, nella prima parte, ho quando io non c'ero, altrimenti va bene. Con un tempo però, non giusto, sì, sì. Caro ascoltatore, ce lo dichi, nel senso che sennò come... Chiedo scusa alla lingua italiana, ovviamente, se ho sbagliato un congiuntivo, però se è più no, specifico... No, non hai sbagliato il congiuntivo, era il tempo del congiuntivo che era sbagliato. Se ho sbagliato, adesso non ricordo. Ma come sei pedante oggi? Per correttezza, dovrei dire che in quella famosa chat in cui Elisabetta Fusconi ti ha detto che genio, io ho risposto poco dopo, ottimo, ma ottimo è la risposta che io dico, cioè, insomma, Mattia, sempre. Ho preso 2 in matematica, ottimo Mattia, è un po' il dai dai dai di Boris, no? di René Ferretti, ottimo, ottimo, ottimo mica vuol dire per me che è una cosa ottima, ottimo, ottimo Manera, cioè, bravo. Diciamo Manera, che parli un po' ottimo. A caso allora, dici ottimo così a prescindere, non ascoltando, sì. Ma allora, posso dire solo all'ascoltatore che ci sono già i monologhi in audio, basta andare su Placebo, pillole agrodolci di Leonardo Manera nel podcast di Radio 24. Quindi se li vuole sentire, ci sono, li può risentire ci sono. Lì. Sul sito di Radio 24, sul sito di Radio 24, però non ci sono tutti quelli raccolti dall'inizio della tua Sono di settimana in settimana. Va bene, allora. E io ricordo che quando è stata proposta questa cosa tu hai detto ottimo, senza neanche ascoltare. Ottimo, ho detto ottimo, ottimo. Ma ho trovato il titolo, Placebo, ottimo, ottimo Placebo. Allora, abbiamo sentito il giornale radio, e comunque è pieno anche sui giornali della notizia, estate senza concerti. Niente, basta, non ci sono i concerti. E che fare dei 3 milioni di italiani? Cifra data oggi da Roberto De Luca, Live Nation, uno dei più grandi promoter. 3 milioni di italiani che hanno il biglietto. Uno di questi ci ha scritto, Silvio Telesca, buongiorno Silvio, eccoci qua. Buongiorno Alessandro, Leonardo, buongiorno. Silvio voleva vedere Paul McCartney. Fammi fare subito una battuta a Becerio, ma sei morto anni fa, Paul. Scherzo, sapete che c'è dicono, questa leggenda. Anche dalla copertina di Abbey Road, tutti i dischi girati al contrario, così dicono, ma pare non sia così. Pare che sia lui. L'altro giorno ho cercato di spiegarlo a mia figlia questa cosa, mi guardava con due occhi ma com'è morto? Ma scusa, se è lì, vabbè, lascia stare, ti informerai delle leggende. Allora, Silvio Telesca voleva vedere Paul McCartney. Sì. Quando era in programma? Allora, in programma Paul McCartney aveva 2 date, il 10 di giugno a Napoli e il 13 di giugno a Lucca. Secondo me, non è un discorso soltanto di Paul McCartney, fermo restando che poi nella fattispecie subentrano anche numeri e costi di biglietti particolarmente diversi. Ci sono biglietti che sono arrivati anche a oltre 750 euro l'uno a biglietto. Accidenti. Per concerti Paul McCartney. Quindi io personalmente, che ne ho acquistati 3 per portare tutta la famiglia, ho speso oltre 2.300 euro per vedere il soundcheck di Paul McCartney, poterlo vedere da vicino e per portare anche quindi mia figlia e mia moglie in un posto a sedere, non, per non portare la bimba di 9 anni sotto al palco nella retta. Certo. Parliamo di numeri, per fare una bella esperienza emozionale. È un regalo anche perché verosimilmente Paul McCartney ha 79 anni adesso, quello che dicono insomma è servivo. E verosimilmente sarebbe stato l'ultimo concerto italiano. Quindi insomma è un evento che, ripeto, fermo restando, è un evento sì storico, è un evento che uno o c'è lì se è appassionato oppure non rischia di non vederlo. Esatto. Però ripeto, secondo me è proprio anche un discorso generale, cioè se io vado ad acquistare un biglietto per un evento particolare, per esempio conoscendo la tua passione per il Milan, se il Milan andasse in finale di Coppa dei Campioni, tu faresti dei sacrifici per andare a vedere la partita di Coppa dei Campioni. Certo. Qualora fosse annullata, tu non ti accontenteresti di dire ok, con questi soldi non puoi vedere la finale di Coppa dei Campioni, puoi vedere un preliminare di Coppa Italia, per esempio Cagliari. Oh, perché questo è il tema, cioè questo è il tema. Esatto. Allora, gli artisti che riprogrammeranno i concerti, io spero che lo faccia anche Paul McCartney a 80 anni. È stato annullato. Ha detto proprio non ci sarà assolutamente. Allora il tema è questo. Il tema lanciato da Silvio e da tanti che ci stanno anche scrivendo, tanti ascoltatori, è: perché mi date un voucher del valore corrispondente per vedere un concerto di chi se ne frega e non ci restituite i soldi? Esattamente, cioè c'è l'unicità dell'evento, no? Poi ovviamente, ripeto, non è un concerto rimandato, è un concerto annullato. E l'annullamento poi non è venuto dal governo legato alle restrizioni. L'annullamento è stato fatto ufficialmente da Paul McCartney in data 7 maggio. Oh, è importante la specifica perché sul sito degli organizzatori del concerto, l'Alessandro e Galli di Lucca, fino al 17 di maggio il concerto risultava non ancora annullato, quando in realtà ufficialmente Paul McCartney sul suo sito l'aveva già annunciato l'annullamento di tutti i concerti. Ma che cosa vi hanno offerto? Vi hanno offerto un voucher, cioè che vuol dire al un voucher? Momento, c'è anche una lista di possibili concerti alternativi? No, allora innanzitutto è ovvio che adesso no, perché sono sospesi. Certo, però se io faccio dei sacrifici che gente so che perché poi su Facebook è esploso un mondo di pagine di chat, di protesta, di richieste di attivazione, certo, di protection, certo, e quant'altro. C'è anche gente che veniva dalla Sicilia, gente di che ha 80 anni e quindi avrebbe visto soltanto quello. Cioè, io che ho speso 2.300 euro non avrei speso per i Coldplay, per Baglioni, per nessun altro. È ovvio che la stessa non cifra. Però qui è interessante, Silvio, sentiamo Leonardo che di questo mondo lo bazzica ben più di noi. Leonardo, cosa ne pensi? Dovrebbero restituire i soldi ai tanti che hanno comprato? È la cosa che nel nostro piccolissimo è successo a noi con lo spettacolo che dovevamo fare in teatro ad aprile. Chi lo aveva già pagato poi è stato rimborsato direttamente dalla cassa del teatro oppure da Ticket One. Quindi certo, generalmente funziona così, ma però bisognerebbe capire attraverso un avvocato anche la normativa. Effettivamente, però il voucher, cioè perché io devo andare, cioè vorrebbe dire caro Silvio, dici che altri artisti ti piacciono e noi ti proponiamo, ma potrebbe essere una soluzione per potermi dire ok, per me può andare bene, ma può anche non andare bene, cioè io devo poter scegliere, dico ok, guardate, a me non interessa altro, devo poter riavere indietro i soldi. Anche perché altrimenti Ma perché dicono, perché dicono di no? Perché chiaramente questi soldi non saranno, cioè qualche spesa sarà già stata fatta per la promozione, eccetera. Però non è che avranno. Beh, sì, per la promozione, per esempio. Però non è che avranno speso tutti i soldi incassati, no? È chiaro questo. No, ma diciamo anche una cosa: che comunque verosimilmente possono essere anche delle assicurazioni e immagino che delle associazioni del genere, delle organizzazioni del genere si assicurano per quanto riguarda dei danni legati a annullamenti e quant'altro. In Europa stanno rimborsando tutti quanti il concerto di Paul McCartney. Non solo, è importante secondo me sottolineare, poi ripeto, io sottolineo soltanto la cosa, non voglio trarre conclusioni. Paul McCartney ha annullato il 7 maggio il concerto. Fino al 17 maggio l'Alessandro Galli non ha comunicato. Non aveva comunicato la stessa cosa. Stranamente, il 18, il giorno della uscita, almeno verrà. Ma questo che differenza fa? Cioè, le chiedo sulla questione in sé, che differenza fa questa discrepanza di 10 giorni? Perché praticamente il 18 col decreto si parla di pagamento in voucher. Quindi il governo ha, diciamo, verosimilmente il momento in cui il governo permette di restituire il pagamento in voucher, perfetto, unici, ripeto, ma anche quindi, io personalmente quindi diciamo si è atteso da parte del promoter il DPCM, ecco, mettiamolo così. Io riporto un fatto che ripeto fino al 17 sul promoter, l'Alessandro Gandhi, risultava il concerto ancora non annullato, quando ufficialmente Paul McCartney il 7 maggio aveva annunciato. Insomma, comunque il tema è questo, poi Silvio approfondiremo, nel senso che vedremo come va a finire, e coloro che hanno preso il biglietto per il concerto di Paul McCartney, ma credo che valga per qualsiasi concerto, se il concerto è annullato, vorrebbero indietro i soldi, non un voucher per assistere a qualcosa. Te lo facciamo ascoltare qui. Aspetta, che Peter sta mettendo Paul McCartney. McCartney. Te lo facciamo ascoltare qui. È accontenta di così. Che ti prega. Posso dire un'altra cosa? Scherzo. No, certo che scherzi, lo so ben, seguo la parecchio. In questo periodo di coronavirus, ovviamente le famiglie che hanno ovviamente avuto delle problematiche quanto riguarda ridotti incassi, ridotta attività lavorativa e quant'altro, ricevere un rimborso del genere di soldi anticipati è stata una bella cosa. Certo, poi soldi che uno non ha fruito, però aspetta, perché Leo voleva dirti una cosa. Leo, no, volevo dire anche che nel caso di eventi così grandi, con nomi così importanti, i costi di organizzazione, di promozione, probabilmente già spesi, sono anche tanti. Forse questo è uno dei motivi per cui si tende a rimborsare quei voucher, cioè non è lo spettacolo di poche centinaia di persone. Poi capisco la vostra posizione, che è assolutamente comprensibile, come se uno va a comprare delle banane, non ci sono più e magari ti danno, che so, dei cetrioli. Però, perdonami Leonardo, ma esiste anche il rischio d'impresa? No? Sì, questa è una causa di forza maggiore. Capisco tutto, però capisco Silvio che dice: oh, ma io volevo andare a vedere il concerto di Paul McCartney, non l'ho visto perché è stato annullato. Mi ridate indietro i soldi? Non l'ho visto. Cioè, nel senso, di dire vai a vederti il concerto di Cristina D'Avena non è la stessa cosa. Mi perdonerà Cristina D'Avena. Una Ferrari ho già pagato, però non puoi averla, prendi 50 Fiat Panda. Non va bene, c'è qualcosa che non va, insomma. Facciamo così, tanto abbiamo i contatti, ci hai scritto, andiamo al traffico e vedrai che, insomma, in qualche modo cercheremo di capire, sperando ovviamente, credo che non l'avrete vinta, perché in forza di legge vi diranno, però ecco, vedremo. 1460 per il cogliere, insomma, che dipende dai consumatori. Mamma mia ragazzi, è preparatissimo, giustamente. Siamo a due ripetizioni. Abbiamo proprio gli occhi di fuori, no, ma giustamente siete arrabbiati. Dai. Traffico e poi parliamo di cinema. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, ieri sono andato all'IKEA a Porte di Roma, Roma Nord. Davanti a me c'era una ragazza che aveva 37,4 e il tizio l'ha fatta passare davanti a me. Ciao Milan, sono Giuliano da Trento. Io ho passato tutto il lockdown a sfogliare sul trono nel bagno il catalogo IKEA. Non vedevo l'ora che aprisse di nuovo. E vai! No. Vabbè, vedi Leonardo che c'è questa passione per... vabbè, giustamente tu hai detto a tutti di prendere le misure durante il lockdown, tu lo facevi e poi dopo la gente è andata lì. Sono primo felice giorno, che infine. Mi abbiano dato retta. Sì. Sì. Allora, abbiamo parlato dei concerti, vedremo come va a finire. Adesso parliamo dei cinema. E poi domani parleremo dei teatri, caro Leonardo, te lo dico già. Ma io domani, insomma, poi però, nel finale rilancerò la campagna Un pacco per lo spirito, avremo un altro ospite. Certo, assolutamente. Il cinema, allora, Mario Lorini presiede l'Associazione Nazionale Esercenti Cinema. Buongiorno Presidente, eccoci. Buongiorno a voi. Allora, il cinema riapre, ecco, ma so che siete abbastanza arrabbiati. Devo dire, non l'unica categoria che prende questa riapertura davvero con le molle. Perché siete arrabbiati o comunque confusi? Che cosa non vi piace? Ma perché finora noi eravamo stati in silenzio, attenti all'evoluzione dell'epidemia, sapevamo che i luoghi di aggregazione avrebbero avuto dei tempi forse più lunghi e che c'erano delle urgenze per far ripartire il paese. Cinema è un luogo dove dobbiamo tornare a vivere una socialità di comunità, un luogo dove tornare a divertirci sicuramente in un modo diverso, ma non ci aspettavamo di conoscere, dopo le prime interlocuzioni sempre fatte con il nostro ministero, di conoscere le misure attraverso l'allegato di domenica notte, che ci è sembrato a prima vista un documento datato, cioè nelle ultime ore, evidentemente grazie alla responsabilità di tutti gli italiani, c'è stato un allentamento, credo voi ne avrete parlato piuttosto netto, no? Sì. Nelle misure, e quindi noi volevamo che il pubblico non venisse a conoscenza di una serie di misure tali che adesso sembra che i cinema siano i luoghi più pericolosi. Ci faccia capire com'è che il 15 giugno si potrà ripartire, ma come allora, andrà al cinema? Le due o tre regole base. Allora, il cinema è stata messa questa data del 15 giugno e può andare anche bene perché quasi tutte le attività siamo proprio tra gli ultimi, e su questo vedremo poi il mercato come si adeguerà. Sapete che noi non possiamo aprire una sala cinematografica e mettere dei prodotti già di nostra proprietà, noi interlochiamo con la filiera, quindi con i produttori e distributori, e in una fase come questa troveremo il miglior modo, perché il cinema si è fermato, sì. I set si sono fermati, si sono fitta all'America che non sappiamo quando arriveranno, quindi questo diciamo è l'elemento. Tutti noi vogliamo ripartire piano piano, però come dire, avevamo intenzione di fare un passo avanti, cioè di trovarci con delle misure che fossero coerenti, perché la sicurezza viene innanzitutto. Allora, il mantenimento del distanziamento interpersonale pensavamo che fosse già stabilito come distanziamento di gruppo. Oggi io con mia moglie, mio figlio o con degli amici oggi mi posso recare in dei luoghi, frequentare. Al cinema no, questo è un punto essenziale, cioè io vado con i miei due figli, dobbiamo stare separati al cinema. Esatto, questo no, noi chiediamo che rispetti la sicurezza, ma è una follia. Allora, sto a fianco, ci abbracciamo, ci tocchiamo, al cinema no. Però allora abbiamo fatto subito delle osservazioni e ci è stato detto ma questo lo otterrete. Allora mi sono domandato perché non scriverlo subito oggi, come sapete che i documenti in Italia girano e nessuno li ferma, oggi il pubblico ha letto che c'è un distanziamento interpersonale, quindi se io lo ottengo domani credo me lo potevate scrivere prima, così le famiglie, i gruppi... Che vuol dire lo ottenete domani? Cioè vuol dire all'italiana, ma sì, fate un po' di casino e di pressione che poi dopo... Si fa all'italiana, il motivo per cui vi dicevo prima, noi siamo stati ad aspettare e non ci avete mai sentito, non ci avete mai visto con i metri, no? Alla televisione, perché sappiamo che siamo luoghi importanti proprio per questa difesa, no? Noi saremo. Allora potevamo approfittare della confusione precedente, perché questo DPCM in atto ha una validità fino al 14 giugno, va bene? E quindi è evidente che lo potremo modificare, perché il 15 verrà modificato, Allora correggetelo subito, tanto il distanziamento di gruppo oramai era una cosa fatta. Tra 15-20 giorni saranno cambiate le cose, speriamo ovviamente non in peggio, e questa cosa sarebbe potuta... No, però se ho capito bene, cioè al momento il provvedimento prevede che non si possano neanche vendere i popcorn, i famosi popcorn. Questo. Allora, ma a parte il popcorn, no, io penso che tutti voi, anche come spettatori, vi ricordiate che c'era un momento di intrattenimento, però... E quindi il cibo fino a poco tempo fa era una sorta di tabù, perché ti devi togliere la mascherina, perché devi fare attenzione, però adesso sono partite delle vendite con prodotti confezionati, con rispetto delle distanze, e quindi in un momento di intrattenimento che si unisce anche a un piccolo ristoro, pensavamo che appunto ci potessimo adeguare con le misure di protezione e sicurezza, così come un bar, anche perché nel cinema ci sono anche dei bar gestiti da professionisti e alcuni sono gestiti in modo interno. Ricordo poi che i cinema sono da sempre abituati a gestire flussi di pubblico. I contenimenti delle capienze massime, 200 al chiuso, 1000 all'aperto, e quindi i flussi che dovranno essere intercambiabili tra gli spettatori, ci consegnano un'esperienza che credo noi sapremo mettere a frutto, perché la tutela dei lavoratori e degli spettatori, figuratevi se per noi non è al primo posto. Quindi questo divieto di consumo ci è sembrato un altro elemento che tra l'altro... Ma tanto vale fino al 14, poi il 15 cambierà tutto. L'ironia, Presidente, però è così. Una cosa che si poteva dire. Quanto vale l'indotto del bar e del consumo? Quanto può valere in un cinema mediamente, percentualmente? Allora, la nostra associazione si è riunita da poco tempo in un unico contesto, quindi noi nell'ANEC abbiamo sia i grandi gruppi che i piccoli esercenti. Nei grandi gruppi ha un valore enorme, ha un valore che supera il 20%, ma anche nelle piccole realtà, come dire, è anche un elemento di completamento, no? Tutti noi sappiamo che bere una piccola bibita, mangiare è un fatto legato al cinema, è un indotto particolare, ma soprattutto per la concezione di poter tornare in una sala dove rispetteremo delle misure in un mondo nuovo, però ritorneremo a fare la stessa cosa, quindi comunità, aggregazione, anche un senso di qualcosa. E poi c'è anche, Lorini, il problema che di tutta Italia della cosiddetta sanificazione. Ecco, io cosa faccio? Mi siedo sulla poltrona del cinema, poi finisce lo spettacolo e che succede? Cioè, Allora, noi abbiamo più spettacoli, i nostri locali vengono igienizzati tutti i giorni da sempre, perché le imprese che si occupano... Ma basta o vi hanno chiesto di più, cioè ogni proiezione? E qui c'è scritto anche, il problema è che il verbale dice anche dopo ogni rappresentazione, allora qui dobbiamo capire che vuol dire anche. Perché, come dire, noi all'ingresso rispetteremo ovviamente tutte le misure, per cui gli spettatori si igienizzeranno le mani con il gel idroalcolico, vengono da casa, si lavano, igienizzano le mani. Anche vuol dire, cosa vuol dire anche? Vuol dire che dopo ogni proiezione. E su questo, voglio dire, interlocuzione, perché se noi abbiamo 4 spettacoli, dobbiamo capire, perché se questa igienizzazione deve essere fatta dopo ogni spettacolo, può darsi che sia un tema che a livello economico va affrontato, No, no, ma infatti, ma io mi chiedo, con tutte queste situazioni, se voi vi aspettate dal 15 giugno, vedremo come, che la gente ritorni al cinema, perché poi c'è instillando tutte queste anche paure o legittime preoccupazioni, uno dice: ma perché io devo portare i miei figli in una situazione che messa così appare a rischio, non per colpa vostra, ma perché il virus c'è? Il tema è questo, l'ho detto all'inizio: noi siamo luoghi di intrattenimento, non possiamo, a prescindere dal tempo, dal 15 giugno c'è un progetto che si chiama Moviland Village, che quindi vuole riportare nelle arene storiche strutture all'aperto che sono presenti ancora in Italia come un momento di riabilitazione, perché all'aperto è un po' più facile, siamo all'aria, quindi non c'è bisogno, no, di dirlo. Il drive-in che torna, anche questo si è sentito. Guardi, i drive-in lasciamoli fare a chi li vuol fare, il tema è che io francamente non ho niente contro da me, solo che siamo stati chiusi in casa 2 mesi e mezzo, magari spostarmi da una casa dentro un'auto in un circuito non è facile. Anche meglio in Italia non c'è una grande storia, è un fenomeno nostalgico, molto romantico, carino, però voglio dire, attraverso un vetro, oggi noi stiamo predisponendo delle anene con l'impianto di uno schermo di 20 metri, dove la qualità e la visione e che però punta sull'aggregazione, anche se io starò con i miei amici e a un metro e mezzo ci saranno 2 estranei ma compagni, bisogna ricreare questo senso di comunità. Siamo stati tutti facciamo così, presidente, noi adesso mi devo fermare che c'è la borsa, vedremo, tanto il 15 giugno è una nuova ripartenza per molte attività, anche i cinema, ci risentiremo se lei è così gentile, giusto a ridosso. Intanto io la ringrazio, Mario Lorini, presidente dell'Associazione Nazionale Esercenti Cinema. Leonardo, prima della borsa devo dire una cosa veloce, perché c'è scritto un'ascoltatrice, Maria Laura, che dice: ecco, vi contraddico perché ho acquistato i biglietti, quelli di Platone del 24 aprile, a tutt'oggi Ticket One non ha ancora risposto alla mia richiesta di rimborso. Ne ha diritto, cara Maria Laura, cioè se ha comprato attraverso Ticket One insista, perché ha diritto, cioè noi non abbiamo visto un soldo, no, lo diciamo seriamente, per una volta siamo estremamente seri, non abbiamo visto un euro, lei lo spettacolo non c'è, lo spettacolo è stato annullato, lei ha diritto al rimborso, poi adesso che si faccia con voucher o si faccia restituendo i soldi, io questo non ho ancora capito, però che si tenga dei soldi che è per una cosa di cui lei non ha fruito, è sbagliato, quindi deve solo insistere. Capisco che in Italia insistere è fastidioso. Andiamo a sentire la borsa, Leo? Ottimo. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Cerchi un software per analizzare, simulare e pianificare? Vai su board.com. Uno, nessuno, 100 Milan. A proposito, viene in mente il film di Verdone dove Mimmo va in farmacia a prendere le medicine per la nonna e poi invece si fa fare il famoso buono, il voucher, va dalla nonna, la sorellella, e chiede: nonna, mi hanno fatto un buono, e che vuol dire? Ecco, la risposta la sapete. Nonna, nonna, mi hanno fatto un buono, che vuol dire? Vuol dire che... che te la vinde il culo. Ecco, perché chi non conosceva bene la, la battuta, la battuta, io per esempio non ero, non ero così avvezzo, non ricordavo. Non è male effettivamente. Ecco, adesso parto come te, quando ti scoppia la stupidità. Che bei tempi quelli del drive-in, eh? Leonardo, a Salò ci sarà stato sicuramente il drive-in, no? No, io no, no, no, Salò io sono un giovane, io non ricordo i tempi del drive-in, sono un ragazzo. Sei un giovane. Ma tu, illustre cittadino di Salò, ieri ci hai detto: io illustre cittadino, passo per Salò, tutti che mi fanno i salamelecchi, gli inchini. No, non è vero, no, mai. No, ma io non ho detto di essere, ma guarda come cambia le cose. Veramente. Ma come, ho detto, no? Ho citato Gasparo da Salò, non ho detto Leonardo Bonetti Manera, ho detto Gasparo da Salò, illustre cittadino. Sì, quindi. Però io devo confermare, cioè passeggi per Salò, soprattutto lo conoscono un po' tutti, insomma Leonardo Manera, un po' il vanto di questa città, o no? No, non è vero, no, assolutamente no, vengo visto anzi con un po' di disprezzo. Ma come si ritira? Vai in giro a fare il pagliaccio. Il pagliaccio, so, chiediamolo al sindaco Giampiero Cipani. Sindaco, buongiorno. Sindaco di Salò, buongiorno. Sindaco, cosa ne pensate di Leonardo Manera all'anagrafe Leonardo Bonetti? Ma tanto all'anagrafe di Salò non lo trova perché è nato a Milano, cioè poi millanta insomma di essere di Salò. Però, sindaco, no, a lei la parola, lei è l'autorità massima. Specifico velocemente, all'età di 6 mesi, dopo aver trascorso i primi 6 mesi di vita qui a Milano in via Vallazze, i miei genitori si sono trasferiti a Salò. Quindi ho vissuto a Salò dai 6 mesi ai 20 anni di vita. Sindaco, come lo cataloghiamo? Cittadino illustre, semi illustre, cittadino qualunque? Adesso stavamo pensando di dargli la cittadinanza onoraria, oltretutto. Ma comunque ha ragione Leonardo Manera: quando passa per Salò è assolutamente anonimo. Non lo conosce nessuno. Non lo conosce nessuno. Questo finalmente la conferma del signor sindaco. Il signor sindaco, capito? È la verità. Ma lui è contento in realtà, sindaco. È contento perché se ne sta tranquillo. Appena si avvicina qualcuno, dice: ti ho visto a Zelig. Lui si innervosisce subito. È fatto così. In realtà mi fu data una onorificenza anni fa dal Comune di Salò, quando nel 2004, se non ricordo male, ci fu il terremoto a Salò che creò molti danni sul lago di Garda e in particolare anche a Salò. Io venni a fare uno spettacolo benefico al Cinema Teatro Crystal, che c'è tutto, insomma, storico di Salò, e in quell'occasione la Protezione Civile di Salò mi diede anche una bella targa che conservo gelosamente nel seminterrato. Super. Sindaco, facciamo qualcosa. Lo ricordo molto bene perché ero un sindaco di Salò anche allora, e quindi ricordo questo particolare. Manera è sempre stato presente, ma ultimamente abbiamo avuto il piacere anche di ospitarlo durante l'assegnazione di un premio Gasparo da Salò, che viene dato a un cittadino che si è particolarmente segnalato. In questo caso era il suo amico Jaime, e ho avuto il piacere anche di ascoltarlo, insomma. Dava delle testimonianze di amicizia nei confronti di questo cittadino. Dica la verità, lei sindaco si era messo di traverso all'onorificenza Manera? Quando... No, non ho ricevuto l'onorificenza. Non è riuscito a impedirla. L'onorificenza non è stata data a me, ma ad Angelo Jaime, che è uno scultore di Salò. Ma non hai detto che anche a Leonardo Manera si possa pensare in futuro di attribuire questa beneficenza, nel momento che evidentemente, come diceva, dall'età di cos'è, di 6 anni o 6 mesi, non mi ricordo. 6 mesi di vita. Sei mesi. Praticamente è un cittadino di fatto. Certo, il papà è ancora lì, insomma, lo faccia se non altro per il papà, ecco, magari Leonardo non ha nessun merito, però per onorare la famiglia Bonetti mi sembra giusto. Leonardo, io ci sto provando. Farò delle pressioni su un vigile che conosco, un mio ex compagno di scuola, il vigile di Cembrini, allora cercherò di fare pressioni sul vigile di Cembrini per avere dei vantaggi e delle onorificenze, che fu mio compagno al liceo. Non sapeva Leonardo che il vice comandante fosse il suo. Adesso ho capito. È vice comandante Leonardo. Cioè, noi stiamo muovendo tutto, stiamo muovendo ogni leva che conosciamo. Adesso ho capito perché è così ammanicato qua. Conosce il vice comandante, attenzione. Ma, sindaco, no, vorrei fare adesso che c'è il sindaco di Salò, invece vorrei fare una domanda, perché ho letto che a Salò la circolazione a piedi, non so se è vera o se è una bufala, la circolazione a piedi sul Lungolago sarà permessa solo in un senso, cioè non si potranno incrociare le persone che vanno e che vengono. È vera questa cosa? Non è una bufala, è una cosa assolutamente vera. Cominceremo da questo fine settimana. Ma il motivo è molto semplice: il percorso, il sentiero stradale, il percorso che dovrà essere nel Lungolago, sostanzialmente nella sua larghezza, verrà dimezzato, forse anche più che dimezzato, perché abbiamo dato la possibilità a tutti quanti gli esercenti che hanno i bar e i ristoranti di ampliare gli spazi gratuitamente, naturalmente, per poter mantenere le distanze interpersonali. Quindi lei conosce bene Salò, la parte dove c'è il marmo sostanzialmente del Lungolago verrà completamente occupata dai tavolini del bar, quindi resterà soltanto la corsia, quella centrale, il portino, che è molto, si restringe di moltissimo la domenica e il sabato, ovviamente, quando c'è tanta gente, abbiamo pensato di fare quindi un senso unico per evitare che le persone si incrociassero. Certo. Tra l'altro il percorso è molto comodo, perché Salò ha la fortuna di avere tante vie trasversali che collegano, diciamo, il Lungolago con la via centrale, che è la via San Carlo, e la via Butturini, naturalmente debitamente presidiate, in maniera che ci sia un percorso alterno, la gente potrà facilmente andare dal centro al Lungolago senza problemi. Senza incrociarci. No, ma sindaco, noi nel ringraziarla, devo dire che quando Leonardo Manera ha iniziato la frase dicendo, approfittando del fatto che c'è il sindaco, pensavo che tirasse fuori quel vecchio abuso edilizio che non riesce a sanare. Sto scherzando, sindaco. Ma io tanto adesso conosce il vice comandante dei vigili. Sì, Dicembrini. È tutto a posto. Ha centrato in pieno lì, mi sta mettendo in crisi la polizia locale con quella storia lì. Non è vero, non diciamolo, sennò poi alla seconda la gente pensa davvero che sia così. Sindaco, noi la ringraziamo anche per la simpatia e la prontezza di essersi prestato al nostro gioco, perché ricordo che Leonardo Manera non sapeva nulla della presenza del suo sindaco, quindi ti sei Questo messo sull'attenti, ti sei tolto la vestaglia, certo. Ti sei messo sull'attenti. Ma io, attraverso il vigile di Cembrini posso ottenere qualsiasi cosa, il vicecomandante, quindi. Potremmo dargli l'onorificenza di paliaccio di città. Potrebbe essere, esatto. Proprio la statuetta col naso rosso, la parrucca gialla, bella, me la vedo già. Vengo io a presentare questa serata, non vedo l'ora. Col vice comandante di Cembrini che ti consegna. Era un paliaccio anche fin dai tempi del liceo. Questo è il discorso. Sì, purtroppo sì. Vabbè, bene. Dai, andiamo al traffico. Ottimo. Uno, nessuno, 100 Milan. Il lato amaro della vita dover utilizzare il voucher di Paul McCartney per andare a vedere lo spettacolo di Manera. Cazzo ragazzi, da giovane si andava al cinema per limonare, adesso ti mettono un metro uno da quell'altro. Uno schifo, dai. Buongiorno Manera, chiedevo per un amico, volevo sapere se i centri massaggi sono riaperti. Per un amico, per un amico. Bello, invece che Paul McCartney, andare a vedere Manera, vabbè. Ma io dico magari, ma purtroppo non sarà così. I centri massaggi andrò a verificare oggi, guarda, ce n'è uno proprio qui vicino a casa mia, a 100 metri, vado a verificare. Per un amico. Chiedeva per l'amico, per un amico. Sì, anch'io vado a verificare per un amico. Sì, sì, certo, anch'io, anch'io. Se poi me lo dici, che così lo dico al mio amico. È arrivato a trovarci, però, per mettere un po' di allegria, altro che il pagliaccio, il vero, vero clown per bambini, il nostro mitico Neronello, credo che sia da quelle tue parti, caro Sono Leonardo. Il clown Neronello, l'amico dei bambini, yup! Buongiorno. Lei sa che in questo periodo, buongiorno, con le scuole chiuse ho avuto un boom di prenotazioni, i genitori mi chiamano per intrattenere i loro pargoli, naturalmente non posso andare a casa loro e quindi mi sono reinventato clown in smart working, il clown Neronello, l'amico dei bambini. Sempre appaio peggio. Sullo schermo del computer, lancio dei coriandoli e faccio subito un indovinello per farli divertire, per esempio bambini, qual è l'animale che dovrebbe usare il botox? La tartaruga, una battuta molto bella, molto, appena detto questo, devo dire, sì, molto gente divertente, che si scompiscia, la redazione di Radio 24 chiude i battenti per risate, sì. Infatti un bambino ha preso una mazza da baseball e l'ha puntata verso di me, allora gli ho detto, bambino, vuoi fare un gioco davvero divertente? Apri l'armadio della mamma, prendi tutti i suoi vestiti, mettili sul tappeto, appicca il fuoco con un accendino e fai un bel falò. Stava per succedere l'irreparabile quando è rientrata la madre e mi ha detto, Neronello, Neronello, perché vuoi incendiare i miei vestiti quando posso semplicemente togliermeli? Abbiamo iniziato a scambiarci foto bollenti, ma ormai stava scadendo il tempo e allora l'ho salutata e ho raccontato ai bimbi una delle mie favole, le favole del clown Neronello. C'era una volta in un piccolo villaggio ai piedi dei Monti Urazi un giovane contadino che viveva da solo nella sua umile casa, non possedeva nulla. La sua unica fortuna era un vecchio cavallo indebolito dal tempo, con cui poteva arare la terra. Un giorno, spaventato dal fragore del temporale, il cavallo si liberò dalle briglie e scappò. Il pianto del giovane contadino esplose così forte da richiamare tutti i vicini che, colpiti dalla sua disperazione, iniziarono a prodigarsi per aiutarlo. Qualcuno gli portava il pane fresco ogni giorno, qualcuno un fiasco di vino. Due fratelli falegnami presero tutta la legna che avevano e lo aiutarono a riparare il tetto della sua casa. L'oste del paese cucinava per lui. Perfino la contessa, che non si mescolava mai con i poveri, aveva preso a cuore la sua storia e aveva iniziato a dargli qualche denaro di tanto in tanto. Un giorno si presentarono alla porta del giovine anche dei funzionari governativi pronti a dargli un sussidio statale. «Come ti chiami, contadino?» chiese uno dei funzionari. «Mi chiamo Ortodonzio», rispose il giovane sorridendo con la sua dentatura complessa. «Accetto volentieri il sussidio statale. Dove devo firmare?» I funzionari, basiti per quella dentatura che superava le leggi della fisica, sbrigarono le pratiche e se ne andarono. Ortodonzio li salutò. Ortodonzio li salutò. Aspettò di vederli scomparire all'orizzonte e una volta rimasto solo, andò a liberare il suo cavallo. Infatti il suo cavallo non era scappato. L'aveva nascosto lui stesso per ottenere i privilegi, ma nel frattempo continuava a fargli sbrigare al cavallo dei lavori in nero per alcuni farabutti della zona e intanto Ortodonzio pensava, li ho truffati tutti, bambini, Qual è la morale della favola? Se fate il vostro lavoro con umiltà, guadagnerete poco e con molta fatica. Se invece vi inventate una truffa ai danni dello Stato come ortodonzio e magari in parallelo portate avanti delle attività illecite, sarete per sempre felici e contenti. Questa è la morale della favola, cari bimbi. Arrivederci con la prossima favola e le prossime avventure del clown Neronello, l'amico dei bambini. Yup! Grazie, grazie Neronello. Devo dire che questo ortodonzio sarebbe veramente da conoscere, quasi da invitare, se potesse uscire dalle favole. Oh, invece arriva un messaggio per Leonardo Manera, di un ascoltatore, che dice: dovresti fare un bel personaggio nuovo, il Covid, il coronavirus, in questo momento un po' indebolito e fiaccato. Vabbè, però insomma, un'ironia parlerebbe un po'... come Pargone, parlerebbe come Pargone, l'onorevole Pargone. Sì, così parlerebbe il coronavirus, un po' in difficoltà, vabbè, meno male, ma noi ne siamo solo contenti. Allora, cari ascoltatori, potete scriverci 100.000@radio24.it. Sareste disposti, al posto di un concerto, non so, di Vasco Rossi, Elisabetta Fusconi, di vedere uno spettacolo di Manera con un bel voucherone in cambio, o da Paul McCartney a Cristina D'Avena, da Ligabue a, non lo so, a boh, chi lo sa. Bene, lasciamo con questa domanda pregnante. Ottimo, vuoi tornare a urlare un po' al mondo qualcosa o no? Non vuoi più tornare a urlare al mondo? No, basta, segnali di speranza. Non saprei cosa urlare oggi. Basta. Non ho nulla da dire, basta, mi ritiro e vado a bere un caffè, vado a vedere se il bar Jimmy è aperto. Oh, ma scusa, hanno riaperto tutti. Come mai il bar Jimmy non è ancora riaperto? Tutti hanno riaperto. Perché ti ho detto che il bar Jimmy è grande, 2 metri quadri, ci può stare una persona, quindi... deve attrezzare il plateatico. Perfetto, il plateatico. A domani, plateatici.